Prima di affrontare i nuovi contenuti, faremo un richiamo degli elementi di algebra del secondo anno. In particolare, rivedremo equazioni e sistemi di equazioni di secondo grado, equazioni di grado superiore al secondo, con particolare riferimento a quelle equazioni scomponibili con la regola di Ruffini. Rivedremo poi le disequazioni e i sistemi di disequazione di primo e di secondo grado. I contenuti del corso di terza riprendono le disequazioni con approfondimenti. Ci occuperemo quindi di disequazioni fattorizzate, di disequazioni razionali, di equazioni di disequazioni in valore assoluto. Esaurito questo, passeremo alla geometria analitica e anche in questo ambito avremo dei richiami: quello del piano cartesiano, le coordinate del punto medio, la distanza tra i punti, la retta, l'intersezione tra rette, l'utilizzo di rette di parabola nelle risoluzioni con il metodo grafico di sistemi di equazioni di secondo grado, fasce di rette, ricerca del centro del fascio di rette, la circonferenza, l'iperbole, delle quali daremo definizioni, proprietà, grafici. Ci occuperemo anche dell'intersezione tra una retta